Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente della decisione non ancora arrivata ma molto attesa sul chi sarà il nuovo governatore della Banca d'Italia. Ancora voci di corridoio, ma insomma il punto fondamentale è che da più parti, mondo delle imprese, osservatori internazionali, si chiede che il governo decida, perché l'annuncio che Draghi avrebbe ricoperto la carica di Presidente della Banca Centrale Europea ha ormai 3 mesi, e a un certo momento, pur leggendo come voi sui giornali quelle che sono le posizioni del Ministro Monti favorevole a che diventi governatore Vittorio Grilli, l'attuale Direttore Generale del Tesoro, o la posizione che vede più favorevole l'attuale governatore Mario Draghi, da quello che si capisce forse anche il Presidente del Consiglio, che preferirebbe una scelta interna alla Banca d'Italia, e quindi sia Saccomanni sia Grilli potremmo coniare o utilizzare il detto di Leporello nel Don Giovanni: non tanto io non voglio più servire, ma o anzi usiamo il Rigoletto, questo quello per me pari son. Per cui quello che si chiede è che arrivi un nome sul governatore della Banca d'Italia. Parleremo però in apertura anche delle quote latte. Perché? Perché oggi c'è stata una sentenza importante a Milano, condannati 16 allevatori produttori di latte a pagare 30 milioni di euro. Ma la cosa interessante è che i soldi che sarebbero dovuti essere utilizzati per pagare le multe sulle quote latte venivano utilizzati per altro. E peraltro si intendono investimenti, ma non solo. Vi faremo anche riascoltare l'intervista al senatore della Lega Fruscio, che è stato commissariato. Lui era il responsabile dell'agenzia che doveva applicare, fare in modo che gli splafonatori di quota pagassero queste multe. Faccio notare che al nostro paese le multe fino ad ora affibbiate sono costate quasi 5 miliardi di euro, ne manca ancora 1,5, no? Visto che si parla sempre di soldi, di risorse. Cioè il valore dell'intera operazione sull'IVA è quello che l'Italia ha pagato all'Europa sulle quote latte fino adesso, dal 98 al 2008, per 657 irriducibili. La Lega li ha sempre difesi, non mi interessa l'elemento politico, ma è cosa notoria, tant'è che un senatore leghista come Fruscio ci ha detto 2 giorni fa, e ve lo faccio riascoltare, che lui è stato rimosso dal ministro Romano perché voleva mettere in atto la legge, cioè far pagare gli splafonatori, e il patto, secondo Fruscio, tra Lega e ministro, la Lega vota contro la richiesta dell'opposizione come è venuto ieri, e nel frattempo gli splafonatori vengono salvati. Tutto questo per far capire anche poi come e dove vanno a finire i nostri soldi. E mi dispiace, sapete che La vicenda assurda per cui noi paghiamo miliardi per 657 splafonatori contro 31.000 aziende in regola che o si comprano le quote se vogliono produrre di più o stanno dentro le quote decise, è una vicenda da cui si capiscono molte cose di questo paese. Continuiamo, lo dico senza nessun tipo di polemica, a non capire perché la Lega difenda 657 splafonatori a discapito, perdendo voti, su 31.000 aziende che sono quasi tutte nel nord, Cremona, Brescia e Piemonte in particolar modo. Chiaramente anche l'approvazione da parte del Parlamento tedesco, del Bundestag, dei finanziamenti alla Grecia, un elemento che ha tonificato i mercati, ma nemmeno più di tanto: più 1,20% Milano, più 0,70 Parigi, più 0,70 Francoforte e meno 0,80 Londra in questo momento. Bene, oggi le due principali banche italiane, Unicredit più 5%, rivede quota 80 centesimi di euro, Intesa San Paolo più 4,60% a 1,21 €, Mediolanum più 3,70 a 2,80 €, Telecom Italia più 3,60 a 83 centesimi di euro, Ansaldo più 2,86%, in Pregillo più 2,60%, come Azimut e come il Monte dei Paschi, ma anche la Popolare di Milano. Infine l'1,90% lo guadagna Enel, ma anche il Banco Popolare. Fronte opposto, TOZ continua a perdere il 3,50%, continua a calare la Banca Popolare Emilia Romagna, meno 3,34%, Luxottica meno 3,1%, Enel meno 2,80%, Campari meno 2,5%, Pirelli meno 2%, ST Microelectronics meno 2%, Tenaris meno 2% anch'essa, infine Di Asori il meno 1,80%, euro a quota 1,36,40, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora, andiamo subito bene con gli sms. Non ci interessano le quote latte, vogliamo sentire analisi economiche, non politiche. Su Romano, guardi, caro ascoltatore, su Romano nessuna analisi politica. Infatti non entriamo nelle vicende che riguardano i rapporti tra la magistratura e le accuse al ministro Romano. Visto che le interessano le analisi economiche, mi dica se è economico o no aver pagato 4 miliardi e 400 milioni per 660 allevatori. Li abbiamo pagati noi. Lo dico anche a chi ce lo chiede, prima lo Stato li paga l'Europa, poi lo Stato deve avere questi soldi dagli allevatori. Se non le interessa, evidentemente ne ha da spendere. Petrolio in rialzo, 82,3 dollari al barile, oro a 1621 dollari l'oncia, rivisto leggermente in rialzo il PIL statunitense all'1,3%, e in America sono stati creati più posti di lavoro delle attese. Negli ultimi 12 mesi, nonostante i brutti dati degli ultimi mesi, ma se si prende l'intero anno, oggi si viene a scoprire che sarebbero stati creati 1,5 milioni di posti di lavoro, 192.000 posti in più rispetto a quelli stimati. Bene i dati sui posti di lavoro anche dalla Germania, la disoccupazione cala al 6,9%, meglio delle attese, e sono calate anche le domande di disoccupazione negli Stati Uniti, di sussidio di disoccupazione, chiaramente negli Stati Uniti 391.000. Come vanno gli spread dei CDS, cioè i due termometri per capire il rischio paese? Stanno lentamente scendendo, la temperatura sul rischio Italia scende leggermente, 355 punti lo spread, 462 i CDS. Oggi il Tesoro ha collocato quasi 8 miliardi tra buoni del BTP e CCT, quindi debito italiano. I rendimenti sono purtroppo in rialzo, soprattutto sui BTP a scadenza 2014, 3 miliardi collocati. Il tasso di rendimento, che vuol dire che a noi tocca pagare di più, offrire di più per trovare finanziatori sul debito, è salito dal 3,87% dello scorso 3 agosto al 4,68%. La domanda è abbastanza buona, 1,3 volte l'offerta. Abbastanza buona, lo chiarisco subito, delle volte la domanda è 2-3 volte quella che è l'offerta, qui siamo a 1,3. Molti operatori la definiscono più tiepida che abbastanza buona, però non ci sono tensioni sulla curva dei rendimenti, e cioè tradotto in termini, non c'è nessuno che sta scommettendo su una difficoltà ulteriore dell'Italia nei prossimi anni, quindi con lo spettro del default italiano. I rendimenti su questo non dimostrano una scommessa al ribasso, una scommessa in negativo. Vedo molti messaggi anche sul governatore della Banca d'Italia, il futuro governatore. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto che entro pochi giorni arriverà un vertice, vi sarà un vertice sulla Banca d'Italia. Il vicepresidente dei deputati del PDL Massimo Corsaro, al termine del vertice di maggioranza, ha detto: stiamo ragionando sul tema Banca d'Italia, non è una battaglia tra Tremonti e Berlusconi, stiamo valutando le caratteristiche dei candidati che potrebbero essere anche più di due. I dati Istat, la propensione al risparmio delle famiglie italiane è ai minimi da 11 anni a questa parte, cala il potere d'acquisto delle famiglie meno 0,2% nel secondo trimestre dell'anno, meno 0,3% rispetto a un anno fa come potere d'acquisto, e qui dobbiamo ancora incamerare l'effetto IVA, lo dico in maniera molto chiara, che ridurrà obiettivamente il potere d'acquisto delle famiglie. Nel mezzogiorno ci sono 400.000 persone in povertà assoluta, 410.000 per la precisione, che stando ai dati Istat non hanno nemmeno i beni essenziali per vivere una vita dignitosa. Su un totale di 10 milioni di minori di 18 anni residenti, 410.000 sarebbero sotto il livello di sussistenza, lo so già, conosco già l'obiezione, al netto del nero e quindi dell'economia sommersa che c'è nel nostro sud. Allora, due notizie ancora, e poi arriviamo alle quote latte, però cambierei forse anche base, perché sono due notizie che riguardano da un lato alcuni errori macchiani, dall'altro però anche come si sprecano i soldi negli enti locali. Così andiamo, visto che ce lo chiedete, a delimitare il perimetro. Si dice sempre i costi della pubblica amministrazione, quote latte sono un caso enorme, però visto che parliamo del nord, per essere bipartisan parliamo anche del sud. No, perché nel giorno in cui scopriamo, grazie all'Istat, che ci sono 410.000 minori nel sud che sono sotto il livello di povertà anche relativa, cioè povertà assoluta, beh, è interessante vedere che cosa fa la mitica regione Sicilia, che tra l'altro, essendo una regione a statuto autonomo, non viene nemmeno toccata granché dal federalismo, per come l'abbiamo capito. Allora, io capisco che le stagioni non siano più quelle di una volta, capisco che c'è caldo d'inverno e freddo d'estate, ma il comune di Palermo dovrebbe spiegarci perché paga i dipendenti per spalare la neve a luglio. Ora, io capisco tutto, ma a luglio è dura, al sud come al nord. In provincia di Palermo, il signor Salvatore Di Grazia, assegnato al servizio protezione civile, ha chiesto e ottenuto dalla provincia il pagamento di 42 ore e mezza di straordinario, più altre 3 di straordinario notturno, per spalamento neve. Ora, è chiaro che non sono queste 42 ore a creare problemi sui conti pubblici, ma se tu gliele autorizzi, non oso pensare cos'altro autorizzi. 42 ore e mezza per spalamento neve a Palermo a luglio. Io lo trovo mitico. Mitico. Salvatore Di Grazia, nuovo ministro all'economia. Nei mesi precedenti, 17 ore di spalamento neve a Palermo ad aprile, 53 ore, sempre il signor Salvatore Di Grazia, a maggio, 38 ore a giugno, 44 ore a luglio, ad agosto l'apice di ore per lo spalamento neve. Non sono impazzito, vi assicuro. 200 ore. Poi, a un certo momento qualcuno si è accorto nella provincia di Palermo, non il comune, e ha bloccato i pagamenti. L'instancabile spalatore, che ricorda un po' Stakhanov, se ci fosse ancora l'Unione Sovietica avrebbe portato come mito, l'instancabile spalatore aveva già totalizzato 415 ore di straordinario per spalare neve nei mesi di, ripeto, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. No, non sto scherzando, veramente. Tra l'altro, la Sicilia spende 8 volte in più della regione Lombardia per gli stipendi dei suoi 17.000 dipendenti. 17.000 dipendenti. 17.000 dipendenti ha il record italiano di dirigenti, funzionari, assistenti, consiglieri e consulenti. E io pago! E io pago! questa è la cattiva notizia. C'è chi scrive nevica sul bagnato, in effetti. Questa è la notizia negativa. C'è una notizia invece anche positiva. Si è dimesso il portavoce del ministro Gelmini, nonché direttore generale della comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, Massimo Zennaro. Ci dispiace per lui. Ha dato le dimissioni dall'incarico di portavoce. Non si è dimesso da dirigente, però, e quindi continuerà a guadagnare 156.000 euro lordi l'anno. Perché si è dimesso? Perché era indicato come l'autore, o comunque quello che non aveva controllato, quel delirante comunicato in cui il Ministero della Gelmini si congratulava con il CERN di Ginevra e con i fisici italiani e sosteneva di aver avuto un ruolo importantissimo pari a 45 milioni di euro nella costruzione del tunnel che collega il CERN a Ginevra con il Gran Sasso, 745 chilometri di tunnel percorribili forse anche in senso contrario. Va bene. Qualcuno dice che era in trasferta sull'Etna, sì, ho capito, ma che cosa la spalia a fare la neve dall'Etna? Lasciagliela lì, che serve anche per sciare. Ministero dello Sviluppo Economico, il ministro Paolo Romani, al microfono la nostra Alessandra Schepisi, le misure per lo sviluppo saranno pronte tra 1-2 settimane. Le liberalizzazioni, alcune le abbiamo fatte ed altre sono allo studio nei decreti che sono sui tavoli e sulle quali stiamo facendo gli approfondimenti. I tempi per questi provvedimenti sono di 1-2 settimane, ma ripeto, parliamo sia di infrastrutture, parliamo sia di liberalizzazioni, parliamo eventualmente di privatizzazioni, parliamo soprattutto di semplificazioni. Ancora una notizia invece appena arrivata che riguarda anche il Ministero dello Sviluppo Economico. C'è il documento di Confindustria, AAB, quindi banche italiane, ANIA, assicurazioni italiane, rete imprese per l'Italia, e quindi Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e alleanze delle cooperative. Hanno definito le proposte condivise, il manifesto preannunciato da Emma Marcegaglia quando la settimana scorsa disse la Presidente di Confindustria: il governo è in grado di fare riforme strutturali e vada a casa. Annunciò anche un manifesto delle imprese da consegnare al governo con i punti essenziali per loro. Da quanto battono le agenzie, c'è un'intesa tra tutte le associazioni per questo manifesto per la crescita. Immagino che se ne discuterà molto anche a Capri il 21 e 22 di questo mese. Di questo mese? No, di ottobre forse. Il 21 e 22 di ottobre. Per il consueto convegno dei giovani industriali, nessun politico sarà invitato a Capri per la prima volta. Questa è la linea che Confindustria sta tenendo da qualche settimana. Fu l'associazione di Vicenza. È una linea critica perché dice: i politici non vengano se non hanno niente da proporci. 349-238-6666 per i vostri sms. Continuiamo. Perché tutti devono tirare la cinghia, alcuni ce lo fanno scoppiano, altri invece lo fanno da tempo. Allora, scusatemi se insisto, ma a me aver pagato come cittadino quasi 5 miliardi di euro di multe sulle quote latte per 460 persone fa arrabbiare da morire. Allora, condannato a 5 anni e mezzo di reclusione Alessio Crippa, rappresentante di una cooperativa del latte, definito il Robin Hood dei produttori, lo ha deciso oggi la quarta sezione penale del Tribunale di Milano, che ha condannato altri 15 allevatori e produttori a pene comprese tra un anno e due anni e sei mesi, nel processo con al centro una truffa da 100 milioni di euro attuata aggirando le normative sulle quote latte. Io non posso ricostruire la storia delle quote latte che va avanti dal 1984, quando l'allora ministro dell'agricoltura Pandolfi negoziò con noi delle quote da molti definiti bassissime, troppo basse. C'è un piccolo problema: sapete perché erano così basse? Anche perché noi già allora producevamo molto latte in nero. Mi rendo conto che è un ossimoro, ma esiste anche il latte in nero. E allora l'Europa, guardando le quote ufficiali, disse: all'Italia vanno queste quote, e in realtà la nostra produzione era molto superiore. Comunque, nel 94 c'è un nuovo accordo, l'Italia ottiene una riduzione delle multe e paga un primo saldo all'Europa, perché c'erano 3 miliardi, erano 6.000 miliardi di vecchie lire da pagare. L'Europa ci fa uno sconto, noi iniziamo a pagare un primo acconto. Nel 99 l'Italia ottiene un 5% di produzione aggiuntiva, però nel 2001 le multe accumulate dall'Italia sono già oltre 1 miliardo di euro. Nel 2003 l'allora ministro Alemanno rateizza in 14 anni a interessi zero il pagamento delle sanzioni. Nel 2008 l'allora ministro Zaia strappa un aumento delle quote del 5%, e a questo punto le quote di latte prodotte dall'Italia sono più o meno in linea con quelle che sono le quote ufficiali di produzione. Ebbene, nuova rateizzazione di Zaia nel 2009, da 10 a 30 anni, per estinguere 1 miliardo e 700 milioni di euro che l'Italia ha già pagato e che gli allevatori, i 670 allevatori, ci devono. Ci devono perché li abbiamo pagati noi contribuenti. Avvocato Gianmarco Brenelli, buonasera. Buonasera. Questa è la ricostruzione della storia. Lei è l'avvocato che ha difeso nel processo che di fronte alla quarta sezione penale del Tribunale di Milano difendeva la parte civile, cioè lei rappresentava il danno. Allora, che cosa ha stabilito oggi il magistrato? Il magistrato ha condannato, come lei ha detto esattamente, gli imputati, poi ha dato una serie di disposizioni civili, in primo luogo risarcimento del danno a favore dell'AGEA, cioè l'agenzia posta dal governo per il prelievo e il riversamento alla comunità europea di queste multe, chiamiamole così, e questo danno verrà risarcito in sede diversa, ma c'è già una provvisionale, che è una somma provvisoria che è stata assegnata per 30 milioni di euro, più ci sono risarcimenti vari alle parti civili, che io rappresentavo la Coldiretti, ma c'era la Confagricoltura, la stessa AGEA e alcune cooperative, le quali avevano cooperative che avevano rispettato la normativa, le quali avevano denunciato questa ulteriore distorsione del mercato creata da coloro i quali evadevano il regime delle quote latte. Quindi ci sono domanda all'avvocato: uno però può anche non pagare, è una multa, la multa l'hanno pagata, però può anche sostenere di non avere i soldi, cioè una multa può essere così alta come ammontare da non permettere di pagarla, è una specie di indigenza, diciamo. Voi avete dimostrato che questi soldi li avevano, li usavano per altro o non li avevano e non hanno pagato per questo motivo? No, qui c'era la Procura della Repubblica che aveva già disposto dei sequestri e anche la confisca di tutti i beni degli imputati, per cui nel caso si arriverà a una soddisfazione di questo debito. Ma loro, io lo sento un po' male, avvocato, ma loro... Sì. Le avevano questi soldi, li usavano per altro o hanno dimostrato di essere indigenti? Mi dica. No, sono stati sequestrati durante l'indagine dei fondi e dei beni alle cooperative di cui si servivano gli imputati, per cui almeno una parte di questi denari verrà recuperata. Allora, quindi c'erano questi soldi in delle cooperative che venivano utilizzati per altro a questo punto? Beh, in effetti loro li avevano, diciamo, i proventi di questa attività criminosa venivano investiti. Io la sto perdendo come collegamento, però allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con l'avvocato Brenelli. Mi sente meglio? Sì, io mi sento perfettamente. Ecco, mi diceva i proventi di i proventi venivano reinvestiti o nelle stesse aziende degli imputati, o addirittura avevano investito molti questi proventi in un caseificio. Quindi con il doppio danno, che da un lato gli altri 31.000 produttori di latte in regola si pagano le multe o si comprano le quote, perché tu, se vuoi produrre di più ti compri le quote sul mercato o si rispettano la legge. Questi non solo non rispettavano le quote, ma i soldi andavano a utilizzarli per fare poi concorrenza, a questo punto sleale. Ci ha raggiunto in collegamento anche il collega del Corriere della Sera, editorialista Massimo Mucchetti. Buonasera Massimo. Ciao, buonasera. Allora, qui c'è un problema, io continuo a non capire perché, ne parlavamo anche con l'allora ministro Zaia, la Lega difenda, perché Zaia l'ha detto in maniera molto chiara, questi 657 splafonatori riducibili, visto che anche gli altri 31.000 produttori di latte

17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di arrivare alla borsa che ha fatto uno strappo nel finale più 2%, ma al collega Mucchetti vorrei chiedere una cosa. L'avvocato Brenelli ci ha spiegato in questa causa vinta oggi, dove sono stati condannati 16 splafonatori di quote latte a pagare 30 milioni di euro, che i soldi in realtà c'erano, non c'era un problema di indigenza, venivano utilizzati e messi in cooperative in altri fondi. Ora, al di là delle offese che arrivano da alcuni che evidentemente hanno la coda di paglia, Massimo Mucchetti, l'ex responsabile dell'agenzia che deve far pagare le multe sulle quote latte, Fruscio, leghista, senatore leghista, dice: il ministro Romano mi ha commissariato e mi ha levato l'incarico perché io le volevo far pagare queste multe. In cambio Romano ha ottenuto il voto ieri contro la richiesta dell'opposizione. Tu ti sarai chiesto perché 660 splafonatori vengono difesi dalla Lega rispetto a 31.000 potenziali voti di quelli che le quote le rispettano o se le comprano? Questa è una domanda è una domanda che non ha... Lo chiederò anche a Brenelli perché mi interessa non anche... Non ha una risposta alla domanda, fai bene a portarla, me la sono posta anch'io al termine dell'intervento che ho fatto domenica sul Corriere, perché è la domanda logica. Gli allevatori sono per lo più allevatori del nord, parlo di tutti gli allevatori degli oltre 30.000 certo. allevatori italiani, che producono latte, molto spesso lo producono in modo assai efficiente, avendo investito nelle loro stalle e quant'altro, e questi allevatori hanno aderito tutti al sistema delle quote latte perché, come hai giustamente ricordato, nei tempi antichi molto del lavoro veniva fatto, diciamo così, in regime di evasione o di elusione fiscale. Con le quote latte le cose sono state regolarizzate, però nello stesso tempo gli allevatori hanno avuto il vantaggio di poter lavorare in un regime di prezzi abbastanza prevedibili e soprattutto abbastanza protetti, perché non dimentichiamo che i regimi delle quote vengono il contingentamento della produzione, viene fatto nel settore del latte, come c'è stato un'epoca in cui lo si faceva per l'acciaio, per la carne, insomma, cioè viene fatto allo scopo di tenere alti o comunque impedire la caduta dei prezzi. Questo bisogna averlo ben presente. Esatto, se no. Allora, le quote sono un piacere che si fa a un pezzo di agricoltura europea. Giusto. Non sto a discutere se sia giusto o sbagliato. No, ma è vero, se tu non avessi le quote avresti il prezzo che crolla. Certo. Fare il difensore, come dire, così ideologico dei consumatori, per l'amor di Dio, ma siamo tutti contadini, andiamo a prendere il latte in Cina che è buono e costa poco. Non dico queste cose qui, difendiamo pure il latte made in Italy, il latte made in Europe e quant'altro, difendiamolo con le quote, ma una volta stabilite le quote rispettiamo il sistema. Anche perché negli anni passati il sistema è stato rivisto 4-5 volte, perché è un sistema complicato. Lo abbiamo raccontato, insomma. È stato aggiornato, alla fine è stato aggiornato anche l'ultimo che ci ha messo la firma, se la memoria non mi tradisce, Zaia. Non è che passo la vita a guardare la questione delle quote latte, però è stato il ministro Zaia, sì. Il quale un minuto dopo aver posto la firma ha sollecitato un'iniziativa del nucleo dei carabinieri presso il Ministero dell'Agricoltura per vedere se per caso non era tutto sbagliato, no? E tutto a caso poi il comandante di quel nucleo, no, i quali non hanno trovato niente di che, peraltro, no, è stato assunto dalla Regione Veneto di cui lui è governatore. Insomma, quindi dopodiché io non sto a dire, ricordo che un grande polemista contro le quote latte è stato il precedente governatore della Regione Veneto, Giancarlo Galan, che non è un comunista, no. È un liberale di Forza Italia, no? E quindi della PDL, che da ministro dell'agricoltura aveva cercato di mettere ordine anche lui in quel ginepraio, come aveva fatto prima il ministro De Castro, e si è trovato contro questo stranissimo pugno di resistenti. No, lì c'è tutta un'aneddotica abbastanza straordinaria. Ce n'è qualcuno che le quote le ha vendute e ha continuato a produrre e a produrre ancora di più di prima, dopo aver incassato dai colleghi, che lui avrà pensato fossero degli scemi, che gli avevano comprato le quote per essere in regola. Lui se ne è fatto un baffo e è andato avanti. Ora, è evidente che queste persone credono ce ne sarà anche qualcuno in buona fede, perché su 600 è tanti, io non voglio pensare che sono tutti 600, no, dei cattivoni, no? Però penso che ce n'è un buon numero che è convinto di essere impunito, di aver ragione. Allora è un po' difficile, poi, questa è una parte, dico, ma questi, capisco il loro tornaconto, no? No, ma la domanda resta in evasa, ripeto. Ma resta in evasa anche capendo qualunque logica politica. Perché uno può immaginare che possono essere nella storia dei partiti, non parlo della Lega, per l'amor di Dio, parliamo degli altri, no? Però nella storia dei partiti più di una volta c'è stato un do ut des fra rappresentanze sociali, organizzazioni, associazioni. No, scusami, no, do ut des politico, cioè voti o altro? Io penso che siccome sono 600 da una parte e 31.000 dall'altra, se io tengo ai 600 e non tengo ai 31.000, faccio fatica a capire che ci sia un do ut des di voti, no? Eccolo lì. Io non so qual è. Eccolo lì. Perché io non faccio niente, però no, io devo immaginare. Oppure siamo davanti a delle persone che, come dire, sono troppo modeste per occupare gli incarichi ministeriali che hanno. Fruscio ritiene che ci sia stato, ed è senatore leghista, uno scambio tra il voto della Lega per il ministro Romano e il ministro Romano che lo ha rimosso dall'agenzia dove lui stava cercando di far pagare le quote. Lo ha detto Fruscio, l'abbiamo mandato anche in agenzia. Ma io posso dire, io lo dico esplicitamente, credo che Fruscio, ma l'abbiamo scritto anche noi prima ancora, abbia ragione. Lo penso anch'io e penso che l'ho scritto liquidando Fruscio, che è un leghista della prima ora, legalitario, a differenza di altri suoi colleghi di partito che legalitari evidentemente non sono, il ministro Romano si è creato un credito e la Lega ha pagato la sua cambiale. Ok, io non riesco a capire però perché bisogna difendere 657 splafonatori. Devo dare assolutamente il traffico. Avvocato Brenelli, prima di salutare lei e Massimo Mucchetti, vorrei sentire anche la sua opinione. Perché, ripeto, lo dico, non sono una verginella, lo dico anche a chi scrive, però veramente difendere 657 splafonatori, attenzione a chi scrive, noi li abbiamo già pagati 3 miliardi e mezzo come cittadini all'Europa, adesso, siccome li abbiamo anticipati all'Europa, toccherebbe allo Stato chiederli a questi qui, ma noi li abbiamo già dati questi soldi. Ricordo che l'intero ammontare di quello che abbiamo pagato per le quote latte equivale a quanto vale l'aumento dell'IVA dell'1% in un anno. Non è poca roba. Traffico. Strade in diretta. Traffico è intenso intorno a Roma e Milano con code per i soliti spostamenti pendolari. Ci sono anche i lavori sulla rete autostradale a complicare gli spostamenti. Sulla 4 Brescia-Padova code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Code sul tratto toscano dell'Autosole per un cantiere tra Monte San Savino ed Arezzo in direzione Firenze e lungo la Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte di Raes e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Infine a Roma per un incendio c'è coda sulla Pontina tra l'ospedale San Raffaele e Monte d'Oro in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. Dopo aver conquistato il mercato italiano del fotovoltaico e aver scalato le classifiche europee delle installazioni di impianti da fonti rinnovabili, Terni Energia entra nel settore dell'efficienza energetica. Terni Energia è il partner ideale per tutte le aziende che vogliono ridurre gli sprechi e ottimizzare il consumo energetico, come leva per salvaguardare la competitività, garantire gli approvvigionamenti, ridurre l'impatto ambientale. Terni Energia incontra la comunità finanziaria e industriale il 7 ottobre a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, nel convegno Crescita e Industria Green, per parlare di efficienza energetica, rinnovabili e waste management. Per informazioni e iscrizioni gratuite www.ternienergia.com. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta, chiudiamo con le quote latte, poi c'è la borsa, più 2%, però dopo settimane che ci occupiamo solo di mercati, spread, CDS, debiti sovrani, Standard & Poor's, borse che cano, possiamo tornare sulle quote latte ogni tanto? Avvocato Brenelli, sì. Anche lei se lo sarà chiesto, perché tra l'altro in un procedimento analogo la regione Piemonte non si è costituita parte civile, lì sarà una coincidenza, il governatore leghista Cota, e da quello che mi risulta perdendo la possibilità di avere 200 milioni di euro. Ma insomma, lei si sarà chiesto che cosa c'è dietro, è emerso qualcosa nel corso del dibattimento, oppure semplicemente sono degli disonesti che non pagano le quote, reinvestono questi soldi, fanno concorrenza sleale e la mettono in tasca ai 31.000 allevatori anche e soprattutto del Nord, anche e soprattutto che votano Lega, onesti? Beh, nel corso del dibattimento è emerso che c'erano intercettazioni col Ministero dell'Agricoltura ed è emerso chiaramente che un ministro di questo governo ha commissariato l'AGEA, l'ente presieduto dal dottor Fruscio, perché sta facendo il suo dovere. Questi sono dati. Cioè, questo è emerso anche nel corso del dibattimento? Questo è emerso nel dibattimento. Anzi, nel dibattimento le difese degli imputati hanno cercato di criminalizzare l'AGEA senza motivare, ma dicendo semplicemente che era un ente ormai squalificato, commissariato dal governo. Ma è emerso qualcos'altro su dove vanno sti soldi? Cioè, se li tengono in tasca loro? No, questo non è emerso perché non era oggetto del giudizio. Si è visto semplicemente che una parte di questi denari sono andati investiti in altre attività come caseifici e nelle stesse aziende. Però certamente emergeva una protezione politica, tanto che si è addirittura chiesto la testimonianza del ministro Zaia, questo l'hanno chiesto gli imputati, come per avere un conforto su una certa difficoltà di interpretazione della legge. La qualcosa però non è stata accettata. L'unica cosa che noi abbiamo visto è che tutti questi denari sono andati, oltre a tutti i danni che sono stati riportati dallo Stato, a distorcere anche il mercato medesimo, perché naturalmente questo afflusso di latte illegale ha provocato anche un abbassamento del prezzo in generale. Allora, segnalano molti ascoltatori che ci sono anche deputati leghisti produttore di latte, ma attenzione, in questo caso, come diceva Massimo Mucchetti, e domani li invitiamo, li cerchiamo, non c'è nessun problema, e rinvitiamo magari anche Mucchetti, che per primo, onore e merito, ha sollevato la cosa su Corriere della Sera di domenica. Noi ci siamo permessi solo di raggiungere il senatore leghista Dario Fruscio. Massimo, se domani troviamo i deputati leghisti, sei con noi? Sarò in viaggio verso quell'ora lì. Vabbè, chiamatemi fisicamente, e proviamo a vedere non fisicamente né biblicamente, diciamo, solo ospite nella trasmissione. Grazie Massimo Mucchetti, grazie anche all'avvocato Brenelli. Adesso c'è il GR, poi cambiamo tema, ossia Borse e Banca d'Italia, questa o quella per me Parison. Cantava il Rigoletto o il Don Giovanni, segnalano alcuni, va bene, stavo parlando di quote latte, e vediamo Saccomanni o Grilli, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non andiamo avanti ancora con le quote latte, perché adesso c'è la borsa, c'è anche il governatore della Banca d'Italia futuro come tema. Ripeto, molti hanno scritto, ma probabilmente c'è un interesse, addirittura c'è chi ha scritto, probabilmente c'è un rapporto tra questi 657 splafonatori irriducibili, difesa della Lega, e la vicenda della banca Credi Euronord poi fallita. Non lo so, non mi risulta, e comunque queste sono cose su cui si muove la magistratura, non un giornalista. La domanda giornalistica era: perché abbiamo pagato per anni, siamo a 3 miliardi e mezzo di euro, ripeto, quasi il valore dell'intera manovra sull'IVA per un anno, per 657 persone, fermo restando che l'elemento politico, e cioè perché votano Lega, non sta in piedi, perché ci sono 31.000 allevatori onesti, molti dei quali, immagino, stando tra Cremona, Brescia e Piemonte, voteranno Lega anche loro. Allora non si capisce perché un partito debba avvantaggiare 650 disonesti su 31.000 potenziali elettori onesti. Non ha nessun senso politico. Il dato economico ve l'ho ricordato, e tra l'altro manca ancora 1,5 miliardi da pagare, cioè che l'Italia ha anticipato e dovrebbe ottenere dagli allevatori. Ma il ministro Romano ha rimosso il presidente della AGEA, che era il senatore leghista Fruscio, il quale, l'avete sentito, ha detto: Romano mi ha rimosso per ottenere in cambio il voto della Lega ieri in Parlamento. Questa è la vicenda, mo la chiudiamo, domani vediamo di beccare anche qualche senatore leghista, possibilmente produttore di latte. La borsa più 2%, più 1% Milano, più 1% Parigi, più 1,1 Francoforte, più, anzi meno 0,40 Londra, più 1,50 gli Stati Uniti, quindi il Dow Jones. Buona la giornata soprattutto su alcuni bancari e in particolar modo i bancari più grandi, e mi riferisco in questo caso a Unicredit e Banca Intesa, che hanno guadagnato il 6%, Unicredit e Intesa San Paolo il 5,90%. Voto del Bundestag ha pesato sicuramente in maniera positiva. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Il Parlamento tedesco ha dato via libera al Fondo Europeo di salvataggio. Questa mi sembra la variabile principale. Come mai la popolare Emilia Romagna però continua a calare anche oggi, anche nei giorni scorsi? Ha perso il 2,20%. Sì, c'è da dire che per la popolare Emilia Romagna l'ingresso nel FTSE MIB è stato, diciamo, un autogol, se vogliamo così definirlo. È vero che il titolo, nell'attesa dell'ingresso nel paniere principale, era molto salito nella prima parte di settembre, quando appunto Standard & Poor's aveva confermato questo ingresso, ma poi immediatamente il mercato, come spesso ci ha abituato ultimamente, è andato a vendere proprio su questo titolo che aveva così guadagnato e che anche oggi si è confermato il peggiore, mentre tu ricordavi come Intesa San Paolo e altri istituti BPM al centro dell'attenzione in questo periodo in particolare si sono comportati molto bene. Ancora tra i titoli bene, oltre che i bancari, cito anche gli altri, però Popolare di Milano più 4%, Mediolanum più 4,35%, Monte dei Paschi più 3,34%, UbiBanca più 2,97%, Banco Popolare più 2,70%, Mediobanca più 1,76%, bene anche Telecom più 5%. Sì, per quanto riguarda Telecom Italia, la conferma ieri è arrivata dall'amministratore delegato Marco Patuano degli obiettivi per il 2011 è stata presa positivamente dal mercato, che ha quindi permeato il titolo, oggi quasi più 5%. C'è da dire che una certa attenzione sul settore è ritornata anche grazie alle indiscrezioni riportate questa mattina da Sole 24 Ore in merito all'ipotesi di una Tre Italia, quarto operatore del settore in Italia, in vendita, e Telecom Italia come principale soggetto potenzialmente interessata ad acquisirlo, e quindi questo è stato il motivo per cui Telecom Italia è stato oggetto di buoni acquisti, anche se con volumi non eccessivi. Tra i titoli, Ansaldo STS da due giorni è tornata sul FTSE MIB, bene anche il titolo, più 3,40%, Impregilo risente dell'ipotesi fondo infrastrutture o la parte, diciamo, infrastrutture Tremonti? Sì, certamente Impregilo aspetta, insomma, gli investitori che guardano al titolo Impregilo aspettano di capire bene su cosa punterà questo fondo infrastrutture e se ci sarà un'accelerazione su interventi e soprattutto opere viarie su cui Impregilo è già impegnata e quindi che potranno poi essere iscritte nel portafoglio ordini di Impregilo, e per questo che da un paio di giorni il titolo si muove molto positivamente. Insomma, le misure per il rilancio e la crescita laddove vanno a intercettare direttamente alcuni titoli, alcuni settori, naturalmente muovono i listini. Ancora bene gli energetici oggi, dicevamo di Enel più 2,58%, ma anche A2A più 1,80%, Eni più 1,5%. Oggi il settore del lusso comunque ha pagato abbastanza, Tod's meno 3%, Luxottica meno 2,40%. Sì, un settore del lusso un po' in difficoltà, non solo sul FTSE MIB, sui titoli che tu, sì, che tu ricordavi, vediamo come uno dei peggiori, forse il peggiore di Piazza Affari oggi è Safilo, il gruppo di occhialeria Veneto ha perso quasi il 9%, proprio perché ci sono difficoltà per quanto riguarda il rinnovo della licenza, del contratto di licenza con Armani, un contratto molto importante che pesa, dicono gli analisti, per il 16-17% sui ricavi del gruppo. Il gruppo oggi in una conference call ha confermato questa incertezza e anche con un comunicato, e il mercato l'ha presa male perché la prospettiva di un contratto non rinnovato con Armani vorrebbe dire un duro colpo ai ricavi e anche agli utili del gruppo, del gruppo Veneto. Per questo il titolo ha perso il 9%. I migliori RDB più 21%, Arena più 17%, Classe Editori più 16%, Investimento e Sviluppo più 13%, i peggiori, oltre al già citato da te Safilo, meno 8,72%, Ceramiche Ricchetti meno 7%, un altro titolo del lusso come Salvatore Ferragamo meno 6,20%, un altro titolo del lusso come Louis Vuitton Moanesi meno 5,60%. Non è tempo di lusso, perlomeno in questi giorni. Grazie a Andrea Fontana, Radio Colli Sole 24 Ore. Grazie a te Sebastiano. Il Bundestag tedesco appunto ha approvato a larga maggioranza la riforma del Fondo Salva Stati. La prima versione, quella di fine luglio, quella da 440 miliardi, non quella ipotizzata da 3.000 miliardi. E ieri il Parlamento finlandese aveva dato il via libera all'ampliamento del fondo, anche la Finlandia era un paese molto scettico. Bella Romano, corrispondente adesso del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Beda, quindi partita chiusa, la Finlandia e la Germania hanno detto di sì, soprattutto la Germania. E quanto ha pesato, secondo te, in questo voto il fatto che nelle ultime settimane, ripeto, sarò malizioso, ma essere attaccate sono state non solo la borsa di Milano e di Madrid, ma anche e soprattutto la borsa di Francoforte, quella di Parigi e i titoli bancari tedeschi e francesi? Allora, prima domanda, se la partita è finita? Temo di no, per due motivi. Prima di tutto perché ci sono ancora dei paesi che devono rettificare il fondo, il rafforzamento del fondo, in particolare la Slovacchia, e la Slovenia e l'Estonia. E sono tutti paesi che hanno dei problemi. La Slovenia ha un problema di crisi politica, la Slovacchia ha un partito all'interno del governo che vuole votare contro il rafforzamento del fondo, e in Estonia c'è un altro problema politico-giuridico. Quindi la partita non è del tutto terminata, i paesi che hanno ratificato sono 11 su 17, ma ne mancano almeno 3 dove la situazione è ancora incerta. Seconda domanda, temo che anche la Germania naturalmente nelle ultime settimane si sia resa conto che questa crisi non può lasciarla indifferente. Credo che molti tedeschi si siano resi conto che le ultime turbolenze di mercato hanno colpito anche la borsa di Francoforte e alcune società. Io credo che i più illuminati tra i tedeschi si rendono anche conto che l'eventuale fallimento della Grecia comporterebbe un aumento dei rendimenti obbligazionari anche tedeschi, paradossalmente, perché in un'ottica globale l'operatore a Hong Kong piuttosto che a Dubai percepirebbe il fallimento greco come, non dico il fallimento dell'unione monetaria, ma evidentemente comporterebbe un grado di incertezza maggiore sugli investimenti nella zona euro, e quindi anche la Germania probabilmente sarebbe influenzata, certo, negativamente da una soluzione di questo tipo. Al che possiamo dire che non tutto il male viene per nuocere, nel senso che le tempeste sui mercati di queste settimane hanno convinto, probabilmente come tu ricordavi, parte dell'opinione pubblica tedesca e francese che non si può restare alla finestra, perché in un mercato unico, anche finanziario e monetario, poi le conseguenze te le becchi anche tu. Grazie a Beda Romano. Il traffico, e poi ultimo tema, questo è quello per me Parisone, è il Duca di Mantova. Io l'avevo detto, poi qualcuno mi scrive Don Giovanni, Rigoletto, Duca di Mantova, e il riferimento però è a Saccomanni oppure Grilli e la Banca d'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, 18 minuti, ultima parte di Focus Economia. Stallo nel governo sulla nomina del successore di Mario Draghi, che dal 2 di novembre, o il 1 di novembre, spero non il 2, diciamo, diventerà governatore della Banca Centrale Europea. 349-238-6666 è invece il numero per i vostri sms. Dicevamo il Duca di Mantova, questo, quello per me Parisoni, due sfidanti, Vittorio Grilli, attualmente direttore generale del Tesoro, nato a Milano nel 1957, laureato alla Bocconi di Milano e poi Yale e la University of London, ha una piccola parentesi tra il 2001 e il 2002 al Credit Suisse First Boston e poi approda al Ministero dell'Economia nel 94, il suo sponsor è Giulio Tremonti. Dall'altra parte sembra un incontro di pugilato. Comunque, Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia da ottobre del 2006, nato a Roma nel 1942, laureato anche lui alla Bocconi, specializzazione a Princeton in politica monetaria, entra in Banca d'Italia nel 1967, dove resta praticamente sempre, una breve parentesi al Fondo Monetario Internazionale, sponsor l'attuale governatore Draghi, l'intera Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e anche il Quirinale e forse anche Berlusconi. Allora, c'è un ascoltatore che scrive: voterei Saccomanni perché ha un bel cognome, imitando quello che ha detto ieri Bossi, Grilli perché è di Milano. Non posso fare tutta la puntata sulla Lega. Saluto invece Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Stefano. Buonasera. E grazie anche a Oscar Giannino, che non lo presento nemmeno, temibile concorrente la mattina, scherzo, il programma la mattina. Ciao Oscar. Un abbraccio. Ciao. Allora inizia il nostro sondaggio, come facevamo ai tempi del ministro dello sviluppo economico: chi vorreste al governatore della Banca d'Italia? Speriamo di metterci meno. Stefano Folli e Oscar Giannino. Prima Folli, perché l'impasse? Perché abbiamo capito che ci sono due nomi, questo va anche bene in una democrazia. Perché, tu oggi scrivevi sul Sole 24 Ore, Stefano, scegliere prima di logorarsi, perché si rischia l'ennesima figura fuori dall'Italia e non è periodo per un nome come questo, di questa delicatezza? Allora, premesso che si tratta di due nomi estremamente qualificati, come avete spiegato benissimo nella premessa, e l'impasse dimostra una assenza di leadership, un'incapacità decisionale e soprattutto il rischio di rimettere una decisione così delicata, che ha naturalmente un effetto sull'immagine del Paese, ma soprattutto diciamo sui delicati equilibri che governano il rapporto tra governo e Banca d'Italia, di rimetterlo a una dimensione politica che dovrebbe restare fuori, almeno non dovrebbe arrivare sul proscenio in questo modo così sgangherato, dando l'idea quasi di una rissa. Questo è molto pericoloso, e dimostra secondo me la debolezza del governo, che avrebbe il dovere di decidere, preservando per quanto è possibile la Banca d'Italia dall'essere coinvolta in questo tipo di confronti o di contrasto. Oscar Giannino, anche per te la stessa domanda, vi chiedo risposte veloci che poi vado avanti con altre cose che mi incuriosiscono. Perché l'impasse? Allora, io considero che le parole di Folli sono auree, quindi aggiungo pochissimo, la penso esattamente allo stesso modo. Credo che in questi giorni, in queste settimane, il problema è aperto in realtà da mesi, da quando è stato designato alla guida della BCE Mario Draghi. Nelle maggiori capitali europee, soprattutto a Berlino, stessero misurando la serietà con cui il governo italiano si accingeva a questa scelta. Ho parlato con i miei amici che lavorano alle finanze a Berlino ed erano abbastanza esterrefatti, a dire la verità, e quindi da questo punto di vista è un altro punto in meno per la credibilità dell'Italia. Aggiungo che poi la sostanza è che sta diventando purtroppo più una regola che un'eccezione che la politica non riesca a evitare di fare scelte alla guida di Banca d'Italia, cadendo in questa trappola, perché la nomina di Fazio, ricordiamo, avvenne scavalcando le gerarchie interne e erano valutazioni però svolte da chi era di Banca d'Italia, Ciampi e così via. Quando siamo arrivati all'uscita di Fazio, l'indicazione di Draghi è stata del presidente del Consiglio attuale, è stata di Berlusconi, secondo me è stata un'ottima scelta, ma dobbiamo ricordare quanto lungo e travagliato fu. Ma c'era anche una vicenda giudiziaria su Fazio, il rapporto con Fiorani. Il problema della Banca d'Italia, quindi era una cosa delicatissima collegata alle scalate del 2005. Ora siamo in un momento nel quale lo spread si regge solo perché la BCE ci fa gli acquisti e ci ha scritto la lettera che abbiamo letto ieri, e a questo punto, da questo punto di vista, chi andrà nel Consiglio della BCE a nome della Banca d'Italia, sarebbe bene anche capire un pochino che posizione terrà. Allora, quello sarebbe stato forse preferibile, a prendere prima il governo, come la pensa, pur sapendo che a quel punto il governatore non rappresenta il proprio sistema paese ed è assolutamente autonomo. Ma la verità è che invece arriviamo a una scelta che non ha, nella posizione attuale, alcun criterio di merito rispetto ai problemi aperti. Cioè, noi siamo perché la BCE continui a fare quello che i tedeschi le hanno chiesto di fare impropriamente rispetto al proprio mandato, ma perché non c'è uno strumento europeo di sostegno ai paesi eurodebiti, cioè gli acquisti sui titoli e magari anche finanziare il fondo salva stati di cui i mercati brindano, ma in realtà non esiste ancora, oppure noi siamo, come è stato con Bini Smaghi, cioè quello che sta nel board ancora oggi, più vicini a una linea di ortodossia, di difesa delle prerogative autonome della BCE rispetto al mandato improprio che i politici tedeschi hanno chiesto alla BCE di svolgere. E questo che è un punto fondamentale per la tenuta dell'Italia, ed è tutto fuori da quello di cui si sta parlando del direttore generale del Tesoro in quanto Tremonti, oppure della linea di continuità interna. Ma questo punto delicato è totalmente... Io non ho ancora capito però perché siamo arrivati così tardi. Tu hai fatto bene a far notare, Oscar, che si consulta la Banca d'Italia prima, non si arriva all'ultimo momento con gli stracci al vento. In rapida sequenza, poi abbiamo un minuto a testa per voi, le dichiarazioni su questo di Bossi, D'Alema e Casini. Saccomagni e Grilli, chi preferisce la Lega? Io Grilli. Grilli? Sono nato perché è di Milano. Beh, innanzitutto io trovo scandaloso che si giochi una partita politica sulla Banca d'Italia. Trovo scandaloso, grave, credo che sia la manifestazione ulteriore, spero estrema, della pericolosità dell'attuale governo. Prevediamo il ministro Tremonti impegnato in un braccio di ferro spasmodico per imporre un suo uomo alla Banca d'Italia. Ecco, una cosa degradante rispetto alle difficoltà che ha il nostro paese. Ho 3 minuti scarsi per capire, prima da Stefano Folli, poi da Oscar Giannino, impresa ardua, se potrebbe spuntare un terzo candidato secondo voi, perché oggi il vicepresidente dei deputati del PDL, Massimo Corsaro, ha detto beh, forse ce ne potrebbe essere anche un altro, giusto per non farsi mancare nulla, magari Binismaghi, non lo so. Stefano. No, ma appunto questo accentua ancora di più quel senso deprimente di rissa e di panni al vento che stavamo dicendo adesso. Io invece penso che si debba scegliere in fretta, si debba chiudere il più presto possibile. Il tuo candidato, dammi il tuo candidato. Ma se si vuole rispettare la continuità della Banca d'Italia pensando che avremo Draghi a Francoforte, è chiaro che, come peraltro desidera la stessa Banca d'Italia, il candidato naturale è Saccomanni. Oscar, anche per te, terzo candidato. Papa bianco, papa straniero e soprattutto cosa voti? Tanto non conta nulla, ma dici. No, io conoscendo la propensione al pasticcio degli ultimi mesi in progresso, direi che il terzo candidato sarà l'ipotesi più probabile, non è quella che io auspico. Gli ascoltatori vogliono te, ma dubito. No, non credo proprio, non sanno i titoli e non diciamo sciocchezze, quindi diciamo chiaro ai nostri ascoltatori che la piantassero. Ma il punto è, secondo me, ripeto, che a questo punto già abbiamo compromesso questa cosa. Tentiamo che il governo tenti di risolvere, e oggi l'ho già detto e lo ripeto, il Presidente del Consiglio ha, secondo l'articolo 94, poteri di indirizzo. Il nome che deve fare al Consiglio dei Ministri, perché il Consiglio dei Ministri ne chieda il parere, poi al Consiglio Superiore della Banca e poi si proceda alla nomina che ha bisogno anche della firma del Quirinale. Allora, il Presidente del Consiglio ha diritto dovere di esprimere un nome, perché sta nella pienezza dei suoi poteri e questa volta non può dire che non ce l'ha i poteri secondo la Costituzione. Questa è la mia opinione. Oltretutto il Ministro dell'Economia è del suo stesso partito. E poi tra l'altro avete fatto bene a far notare che un governatore della Banca d'Italia, diciamo così, non in ottimi rapporti con il futuro Presidente della Banca Centrale Europea, qualche problemuccio, forse, se vogliamo essere furbi una volta ogni tanto. In una battuta, visto che ho fatto più di un'ora sulle quote latte e perché la Lega difende 650 persone contro 30.000 allevatori onesti, Stefano Folli, tu hai mai capito il perché di una difesa che non può essere per motivi elettorali, sì o no? No, anche per motivi elettorali sicuramente, è un po' l'intreccio profondo della padania profonda. Oscar Giannino? Io ti dico che credo che la vera predilezione sia per la vigilanza bancaria, che è tutto quello che poi resta in Italia. Pensiamo alle vicende della BPM in corso, quindi è quella la ragione per cui la politica vuole avere peso. Attenzione, perché insomma qui sia Massimo Mucchetti prima che l'avvocato Brenelli hanno detto, ma insomma questi soldi non pagati poi forse circolavano in altri modi. Domani cerchiamo alcuni senatori leghisti, magari produttori di latte, per capire perché perdono o rischiano di perdere 31.000 voti di allevatori onesti per difendere 650 allevatori disonesti che sono già costati a noi contribuenti, li abbiamo già pagati, 3 miliardi e mezzo di euro, ossia l'ammontare quasi dell'intera manovra sull'IVA per un anno. Grazie a Oscar Giannino, grazie a Stefano Folli, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.